in primo piano. Lo porterà. Ok, scusate, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, cose che succedono. Vi dicevo grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, addirittura prima che inizi la trasmissione. E due o tre incoraggianti, uno che invece mi consiglia di darmi all'ippica. E io chiedo a chiunque sappia l'origine di questo modo di dire, perché, cosa significa, è bellissima l'ippica, è una disciplina stupenda, io adoro andare a cavallo, darmi all'ippica anziché fare la giornalista, però no, mi dispiace caro ascoltatore. Ma cominciamo dal Sole 24 Ore, che come sempre ha un'apertura di tipo economico-finanziario, in particolare un'indiscrezione raccolta dai nostri colleghi di Roma, secondo la quale nella nuova manovra ci sarebbe la proroga del superammortamento, che è una misura fiscale che aiuta molto gli investimenti delle aziende. E tra l'altro si lega bene alla notizia sull'indice di fiducia di ieri, che dà la fiducia delle imprese ai massimi da 10 anni. Poi naturalmente un approfondimento, e poi trovate numerosi articoli alle pagine 2 e 3, il Sole 24 Ore tra i quotidiani che dà più spazio a questo vertice, al vertice che c'è stato ieri a Parigi, che ha coinvolto in primis i capi di governo di Italia, Gentiloni, Francia, Macron, e Germania, Merkel, ma poi i leader africani. Ed è stato molto interessante perché lo spunto era l'emergenza della Libia e dell'immigrazione clandestina dalla Libia, ma anche si è parlato di immigrazione dall'Africa in generale. E abbiamo anche, secondo me, una delle foto più belle scattate ieri, perché c'è Emmanuel Macron con il presidente del Niger, Mahamudi Soufua, e vicino a lui c'è questo cane, questo labrador nero Nemo, che Macron ha adottato da poco e ha conquistato un po' tutte le prime pagine, le pagine dei giornali dove si parla di questo vertice. Ci fermiamo però un attimo e speriamo di ritrovarci per la prima pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori che stanno seguendoci dall'auto, come mi raccontano alcuni messaggi al 349-238-6666. Davvero vi ringrazio tutti per questi messaggi così di prima mattina. Abbiamo visto la prima pagina del Sole 24 Ore, quella del Corriere della Sera, come molte altre pagine, prime pagine oggi, è dedicata al vertice di Parigi. Il Corriere della Sera sceglie proprio un virgolettato di Macron: migranti militari in campo. Oltre, vi dicevo, ad aver parlato dell'emergenza Libia, si è parlato anche, perché erano presenti il presidente del Niger e del Chad, due dei oltre 100 paesi dell'Africa, e c'è stato proprio siglato un accordo. Il commento di Gentiloni, il premier italiano, è stato: finalmente abbiamo una strategia europea chiara. La fotonotizia viene dall'Argentina, è una storia bellissima raccontata da Emanuele Trevi, è la storia di Marina Ciudoba e Oscar Brusco, e stanno partecipando alla gara dei mondiali di tango a Buenos Aires, hanno rispettivamente 90 e 82 anni, una passione, anche uno per l'altro, ma non proprio di tipo classico, nel senso che sono entrambi vedovi e non sono sposati tra loro, e però hanno questa passione per il tango e stanno appunto incantando ai mondiali di Buenos Aires, perché gli altri concorrenti non necessariamente hanno la loro età, anzi alcuni sono molto più giovani. Vi leggo però il caffè di Massimo Gramellini, perché è relativo a quella frase poi subito rimossa da Facebook che avevamo citato ieri, di un musulmano che si definisce anche mediatore culturale che aveva postato su Facebook la sua opinione sullo stupro suscitata dal fatto di cronaca dello stupro a Rimini, e aveva scritto che tutto sommato lo stupro per le donne è un atto sessuale piacevole. Scrive Massimo Gramellini: poi la donna diventa calma. Questo è il virgolettato di questo post di Facebook poi rimosso, ma come sapete in rete si può ritrovare tutto. Aperte virgolette: lo stupro è un atto peggio, ma solo all'inizio. Poi la donna diventa calma e si gode come un rapporto sessuale normale, chiuse virgolette. ad aver scritto queste parole allucinanti che fanno violenza anzitutto alla lingua italiana. E qui, benché io stia per leggere tutto il Buongiorno, il caffè, scusate, di Massimo Gramellini, e che lo trovi incisivo, mi ha molto disturbato questo avverbio, anzitutto, che fanno violenza anzitutto alla lingua italiana. No, anzitutto queste parole fanno violenza a chi ha subito la violenza. Comunque, Massimo Gramellini sostiene che anzitutto queste parole fanno violenza alla lingua italiana. Le ha pronunciate un mediatore culturale, si chiama Abid G e vive a Bologna, dove studia giurisprudenza a dispetto della medesima, ma percepisce regolare stipendio da una cooperativa per svolgere la nobile professione che, secondo la Treccani, consiste nel, definizione appunto di mediazione culturale, mediare tra due o più culture, talora molto distanti l'una dall'altra, al fine di favorire l'inserimento di persone immigrate. Il problema è che per mediare tra due culture bisognerebbe possederne almeno mezza. Mentre nel linguaggio da entomologo del sesso con cui Abid G ha vivisezionato su Facebook lo scempio compiuto a Rimini da una banda di fallocrati, si avverte soltanto la presenza di un pregiudizio cavernicolo nei confronti delle donne. In Europa avevamo cominciato a liberarcene del pregiudizio, non ancora dei cavernicoli, prima che da oltremare giungessero rinforzi. Sarebbe interessante conoscere i criteri in base ai quali vengono selezionati certi mediatori. Devono esprimersi in un italiano decongiuntivizzato per non demoralizzare gli ospiti circa le difficoltà della nostra lingua? E devono ignorare secoli di illuminismo, di romanticismo e finanche di boldrinismo per non far sentire a disagio chi a casa propria era abituato a considerare le donne una protesi silente del proprio ego? Ci spiegheranno che Abid G è un caso isolato. Ecco, nel caso ce ne fossero altri, isolateli. Alle pagine 2 e 3 approfondimenti sul vertice di Parigi con tante foto e, come vi dicevo, questo Labrador appena adottato da Macron lo segue dappertutto, però la foto, secondo me, che c'è sul Sole 24 Ore è ancora più bella perché Nemo fa proprio parte delle foto ufficiali, non è solo con Macron ma è tra lui e il presidente del Niger. Il Messaggero ha la stessa apertura, cioè i risultati di questo importante vertice che si è tenuto a Parigi. Migranti identificati in Africa. Sono infatti stati decisi dei posti di controllo nei paesi subsahariani per regolare i flussi. Ed è anche previsto, come titolava anche il Corriere della Sera, l'invio di militari europei. La fotonotizia però è dedicata a quella che viene definita la furia di Harvey sul Texas, l'uragano che ha colpito in particolare il Texas, dove ci sono 30.000 sfollati. Trump ha dichiarato lo stato d'emergenza, però purtroppo continua a piovere. Poi l'inchiesta, l'aggiornamento sull'inchiesta aperta dalla Digos per lo sgombero di via Curtatone, è stata già ipotizzata l'associazione per delinquere, perché si è scoperto subito, anche se poi ho sentito numerose interviste a chi era in quella casa che negava, ma probabilmente lo facevano in qualche modo per proteggere se stessi o perché temevano rappresaglie, si è scoperto che c'era un vero e proprio, una sorta di tariffario anche, cioè le persone che vivevano lì in questo stabile occupato abusivamente addirittura avevano appunto una ricevuta per i pagamenti che facevano. Due notizie, una ancora che riguarda Roma, che è quella della crisi proprio idrica che ha portato a un razionamento dell'acqua durante la notte a Roma. Nella capitale viene ridotta la pressione dal centro a Fiumicino, meno acqua di notte per la siccità. E poi un'altra notizia che invece viene dal Ministero del Lavoro e dall'INPS, parte delle norme che si stanno cercando di adottare per limitare per esempio il fenomeno dell'assenteismo e delle malattie finte, diciamo così, viene affidato all'intelligenza artificiale. Un computer scoverà gli assenteisti. All'INPS è stato messo a punto un algoritmo che deciderà le visite fiscali ai dipendenti. Un personaggio che ha un po' di intervistite è Angelino Alfano, ministro degli esteri, che però oggi dà un'altra intervista, l'ennesima, ho perso il conto negli ultimi giorni. Questa la dà appunto al Messaggero, la dà a Marco Ventura e naturalmente sulla questione della Libia. Notarsi che quando era ministro degli interni, in tutti quegli anni non ha mai fatto niente di quello che poi ha fatto Minniti, cioè che il cui primo viaggio ufficiale dopo essersi insediato come ministro degli interni al posto appunto di Alfano, che adesso è ministro degli esteri, fu di andare appunto in Libia per cercare di instaurare un dialogo con la Libia, visto che dalla Libia, era già noto all'epoca, partono la maggior parte delle barche con gli immigrati clandestini. Adesso Alfano sostiene che bisogna dialogare con l'Egitto per stabilizzare la Libia e poi ci annuncia che a settembre incontrerà il ministro del Cairo. La Repubblica, corridoi africani sempre più stretti e nel deserto la strage dei migranti. Quindi la Repubblica sposta un po', naturalmente parla del vertice di Parigi, ma sposta un po' anche il ragionamento sulle altre rotte. Abbiamo visto anche nei giorni scorsi alcuni reportage davvero impressionanti su appunto queste rotte nel deserto dove moltissimi migranti perdono la vita, e alcune ce le racconta Lucio Caracciolo, che è anche direttore della rivista Limes e sicuramente ha in testa tante mappe del mondo e tanti scenari geopolitici che forse a chi insomma non ha l'opportunità, il tempo o gli strumenti per conoscerle, appunto sfuggono tutte queste alternative che pure esistono. Per esempio nel caso delle rotte dei migranti, oltre a quella del Mediterraneo, naturalmente c'è tutto quello che viene prima, cioè per arrivare sulle coste libiche e imbarcarsi su una di queste barche dei trafficanti di uomini bisogna spesso prima attraversare dei deserti. L'uragano del Texas è raccontato con la penna di uno scrittore, Joe Lansdale, che è uno scrittore americano originario del Texas. Trovate poi tutto l'articolo a pagina 16 e 17. L'uragano non spegnerà il cuore del mio Texas. Sulla siccità di Roma, la fotonotizia più bella ce l'ha al secolo XIX, è la foto di una mano con in mano un piccolissimo riccio, perché a soffrire la siccità sono naturalmente tutti gli esseri umani, tutti gli abitanti di Roma, ma anche gli animali. E quindi si racconta sul secolo XIX e poi anche sulla stampa, che è, sapete, pubblicata dallo stesso editore, i volontari che salvano gli animali dal grande caldo. Dai ricci ai falchi, lotta a Roma, ma anche a Genova, contro la siccità. La stampa, immigrazione e il patto di Parigi, vedete come tutti i giornali danno la stessa importanza a questo vertice che c'è stato a Parigi. E a proposito di algoritmi, la stampa parla non di quello che deciderà quali visite fiscali attuare ogni giorno, ma quello che invece fa correre la borsa. Da Wall Street a Singapore, un sistema di piattaforme online permette di guadagnare senza intermediari, con tutti i rischi annessi e connessi. Ricordo qualche settimana fa di questa e-finance, di questa finanza gestita interamente dai computer e dagli algoritmi, aveva parlato sul Sole 24 Ore approfonditamente, e trovate, se fate una ricerca sul sito, trovate questi articoli, Vittorio Carlini. Il giornale: c'è una rete che protegge gli stupratori nordafricani, il tema è ancora di quella terribile violenza a Rimini. Qualcuno aiuta il branco, questo quanto emerge da quello che hanno che raccontano i cronisti del giornale. Si rischia un altro caso Igor, sapete, il super latitante, invece quello era in Emilia Romagna e non era accusato di violenza sessuale ma di omicidio. Poi una riga anche per ricordare il vertice di Parigi: l'Europa si sveglia, stop agli immigrati. La fotonotizia però è dedicata a Lady Diana, e sapete, morta nella notte tra il 30 e il 31 agosto, quindi non sono ancora esattamente 20 anni, ma ci stiamo avvicinando. Ieri Repubblica ha anticipato tutti con il suo di ricordo, oggi tocca a Tony Damascelli sul giornale, con altri articoli poi alle pagine 14 e 15, Diana, regina dell'amore tragico, il mito a 20 anni dalla morte. Stessa scelta per Libero, che affida invece il ricordo di Lady Di che a Melania Rizzoli: Diana vale più da morta che da viva, a 20 anni dal decesso si parla solo di lei. Ma il titolo è il virgolettato preso da quel post del cosiddetto mediatore culturale, quindi un virgolettato: le donne stuprate godono, teoria shock di un capo musulmano. Ecco, forse non era proprio un capo musulmano, ma sicuramente era un musulmano e per di più anche, appunto, come abbiamo visto, uno stipendiato da una cooperativa come mediatore culturale. La Verità invece ha un altro fatto di cronaca che viene da Londra, ma di cui si sta parlando molto: una bambina nata in una famiglia cristiana che poi è stata affidata due volte a famiglie islamiche, che ha solo 5 anni questa bambina, che la stanno crescendo con la loro religione, e da qui il titolo "Convertita con la forza a 5 anni, bimba cristiana affidata due volte a famiglie islamiche". Questo è proprio il titolo principale della Verità: via crocifisso e pasta alla carbonara, obbligo di imparare l'arabo. E si chiede Maurizio Belpietro, fondatore e direttore della Verità: il Papa non ha nulla da dire? Poi una foto per illustrare sicuramente quello che è un problema, ma la foto naturalmente non c'entra niente con il tema. Il tema è quello delle vaccinazioni a scuola, che sono, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, perché sono un problema, perché è difficile capire come mettere in pratica i nuovi obblighi, come mettersi in regola per non correre il rischio di vedersi negata l'iscrizione a scuola. Parte del problema è il fatto che questo decreto è stato approvato poco prima delle vacanze, poi tutti in vacanza, tutti liberi, parlamentari, membri del governo, e quindi probabilmente è stato anche difficile mettere a punto le norme giuste. In ogni caso, la Verità solleva il problema che esiste: vaccini a scuola un guazzabuglio, e lo illustra con una foto di Valeria Fedeli e del ministro della Salute Lorenzin, colte in un momento mentre ridevano. Credo che sia lecito ogni tanto ridere, e quindi il titolo della fotonotizia, e che poi richiama un articolo a pagina 10, è "E loro due ridono". Ma magari ridevano, non so, 3 anni fa per una barzelletta, magari, non lo so, pronunciata da qualche collega o da qualche collega parlamentare. Ci fermiamo un attimo per una pausa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e grazie davvero a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi positivi di incoraggiamento. Come ho già detto altre volte, sono a volte veramente quasi commossa, perché quando una persona che non ti conosce ha parole gentili e di stima, è davvero una grandissima soddisfazione, e quindi ancora davvero vi ringrazio tutti. E poi naturalmente ringrazio anche a chi invece manda dei messaggi critici, che io comunque leggo e sui quali cerco di riflettere. Comunque il numero è il 349-238-6666, sms o whatsapp, e come appunto abbiamo ancora una mezz'oretta insieme. Il Fatto Quotidiano dedica molto spazio a sua volta alla vicenda dei vaccini, perché, come abbiamo detto, il problema esiste, senza però inutili ironie o fotografie fuori contesto. Il titolo è "Vaccini, altro disastro", quindi la sostanza è la stessa. C'è anche, oltre, abbiamo visto appunto le difficoltà proprio burocratiche di capire come fare, come dimostrare di aver vaccinato il proprio figlio o figlia, oppure anche in quali centri si può fare, per esempio gratuitamente. C'è anche un problema di privacy, perché le leggi, appunto, c'è il caso della Liguria che spedisce alle famiglie i dati sanitari dei minori, e un vademecum sull'utilità di tutelarsi. Ci sono altri esempi non brillantissimi. Il titolo principale però è dedicato, se vogliamo, un po' al tema della manovra e alla richiesta che ha fatto Confindustria, e che, come sapete, è l'editore di questo gruppo, di cui fa parte il Sole 24 Ore e Radio 24. Il titolo del Fatto Quotidiano è "80 miliardi di soldi pubblici, ma Confindustria batte cassa. Dopo tutti i regali governativi, Boccia chiede altri 10 miliardi. Questa notizia non è di ieri. Come ricorderete, dal meeting di Rimini, Vincenzo Boccia, se volete, un po', insomma, non è del tutto, come posso dire, in totale buona fede che viene rilanciata questa richiesta, nel senso che è chiaro che il leader di Confindustria, come i leader delle altre parti sociali, fanno delle richieste, poi nessuno pensa che la richiesta venga accolta completamente. Si tratta di mediare, di trovare un compromesso. Questi 10 miliardi non sono così per divertimento, ma dovrebbero essere tutti usati per incentivare l'occupazione giovanile, e tramite misure, soprattutto sgravi fiscali per le aziende che assumono giovani. E come sapete, la disoccupazione giovanile è una delle emergenze di questo paese, perché in Europa abbiamo un tristissimo primato, siamo appunto ai primi posti non solo per disoccupazione ma appunto per disoccupazione giovanile. In prima pagina anche questo caso di cronaca che viene dalla Germania, che ovviamente sui giornali tedeschi è in prima pagina ovunque, questo che viene definito uno di questi termini, che questi piccoli così frasi fatte, non so neanche come chiamarli, che cordialmente detesto, che è angelo della morte. Comunque si intende in generale con queste tre parole un operatore sanitario, che sia un infermiere o un medico, che contrariamente a tutto quello che prescrive il suo ruolo, anziché aiutare a vivere o a guarire, aiuta o addirittura uccide. Questo infermiere in particolare, abbiamo avuto anche di recente il caso in Italia dell'infermiera di Legnano, questo infermiere in Germania si è scoperto per ora con quasi certezza che ha già ucciso 90 malati, ma secondo alcune analisi potrebbero essere molti, molti di più. Il Giorno torna sulla vicenda dei vaccini prendendo spunto da un caso di cronaca di Senigallia, dove c'è stato un vero e proprio allarme in un ospedale perché un'ostetrica aveva il morbillo, e da qui l'appello del Giorno: vaccinare i medici. Segnalo però la rubrica di Vittorio Sgarbi, che si chiama Sgarbi contro le capre, e qui, visto che abbiamo parlato ieri di autoironia, Sgarbi sicuramente non sempre, però ogni tanto ne mostra parecchia, forse appunto a partire da questo dal titolo della sua rubrica, perché sapete che una delle apparizioni, delle frasi ormai passate che tutti ricordano di Sgarbi, è quando se la prese con una persona che lui considerava ignorante dandogli della capra. Oggi la rubrica si intitola "Che sconforto quei politici senza pensiero". Ciò che rattrista dei politici del nostro tempo non è la prevedibile inaffidabilità o la presunta disonestà, ma la totale mancanza di competenza, culture e idee. In molte occasioni ho ricordato la considerazione di Benedetto Croce: il vero politico onesto è il politico capace. Ma oggi questa definizione non basta a far intendere l'abisso tra quello che un politico deve essere e quello che è nella totale assenza di pensiero. Tornano le osservazioni di Francesco Guicciardini nei suoi ricordi. Non fare più conto d'avere grazia che d'avere reputazione, perché perduta la reputazione si perde la benevolenza e in luogo di quella succede lo essere disprezzato. Ma a chi mantiene la reputazione non mancano amici, grazia e benevolenza. Guicciardini, non so se ha torto o ha ragione, viene un po' considerato l'anti-Machiavelli, era un contemporaneo di Niccolò Machiavelli, il famoso autore del Principe, ma secondo me, per quello che ho letto e per i ricordi che ho a scuola, forse Guicciardini è ancora più attuale di Machiavelli, è quello che teorizzò, per esempio, la teoria della tutela del proprio particolare, che purtroppo in Italia è molto diffusa, cioè guardare all'interesse personale più che quello della collettività. L'Avvenire, l'Europa ci prova, il riferimento è al vertice che si è tenuto a Parigi ieri, e poi però la fotonotizia è dedicata a Roma: Roma senza acqua per ora di notte. E poi la notizia, dicevamo, della bambina cristiana in affida a una coppia islamica, è una storia che è stata raccontata dal Times di Londra e poi ripresa dai giornali italiani. L'accusa è appunto di aver plagiato questa bambina che ha solo 5 anni e aver cercato di portarla, appunto, educarla in una religione che non era quella nella quale era stata educata fino ai suoi 5 anni. Il Manifesto, la scoperta dell'Africa, questo titolo è interessante perché ieri i leader africani che hanno preso la parola, in particolare quelli di Niger e Chad, hanno secondo me sollevato una questione interessante, che certo noi in questo momento vediamo l'immigrazione dall'Africa solo come un problema e come un fatto illegale, e così è. In questo momento in particolare, appunto, quando parliamo dei trafficanti di uomini che portano immigrati clandestini dalla Libia verso l'Europa, esiste però anche tutta un'immigrazione invece positiva, proprio di persone che arrivano e sono, per così dire, cervelli o talenti in fuga dall'Africa. E da qui appunto il titolo "La scoperta dell'Africa". Dopo decenni di sfruttamento delle risorse africane, di corruzione delle leadership e di commercio di armi, l'Unione Europea, con il vertice di Parigi, torna nel suo cortile avviando in Libia, Niger e Chad un sistema di controlli per fermare la disperazione di chi fugge da miserie e guerre, ma anche appunto per capire quali sono invece i flussi migratori, che comunque non hanno niente a che vedere che non hanno conseguenze negative, ma anzi sono quei tipici flussi migratori che mischiando i popoli e le culture possono solo avere effetti positivi. Il Foglio si concentra sulla Brexit, perché ieri un po' in sordina sono ricominciati a Londra gli incontri, soprattutto a Londra, per cominciare a definire, a distanza di ormai più di un anno, un anno e quasi tre mesi dal referendum un anno e due mesi dal referendum del 23 giugno 2016, nel quale i cittadini del Regno Unito hanno deciso, anche se con uno scarto molto piccolo tra il sì e il no, di appunto lasciare l'Unione Europea. Ieri a Londra sono reiniziate tutte gli incontri tecnici per definire i dettagli di questa Brexit e poi sottoporli ai negoziatori di Bruxelles. La prima pagina diamo come sempre uno sguardo ad alcuni quotidiani stranieri. Vi dicevo, i quotidiani tedeschi danno molto spazio a questo infermiere. La FAZ parla di 84 morti, si dice insomma circa 90 quelli dimostrati, però appunto anche la FAZ dice probabilmente sono molti di più. La fotonotizia però, e la foto per oggi è di un formato molto più grande rispetto al solito, è dedicata al Texas e a questo disastro che sta compiendo la tempesta, uragano, è stata declassata dai meteorologi, ma ha fatto una decina di morti e 30.000 sfollati per ora, questo è il bilancio. E il titolo è una inondazioni senza precedenti. All'interno anche un articolo abbastanza interessante, il corrispondente dall'Italia della FAZ, Tobias Piller, me l'ha segnalato, perché dice è proprio una specie di tributo invece a chi questa cosa la sa fare, cioè gli italiani. Di che cosa parliamo? Della capacità di costruire un marchio. Molto spesso in Germania questo non succede, perché si è troppo concentrati sugli aspetti tecnici di un prodotto e si dimentica che molto è anche dell'immagine, che non deve essere sempre vista come negativa. Le due cose devono andare insieme: da una parte il prodotto deve essere sostanzialmente buono e dall'altro deve avere una buona immagine. Quindi gli esempi di come i marchi vengono rovinati, naturalmente in Germania e non in Italia o anche in Francia. Anche i francesi sono molto bravi a costruire i marchi, che è una parte del marketing che non va assolutamente demonizzata, secondo me. Naturalmente i giornali francesi danno tantissimo spazio al vertice di Parigi, Le Figaro, crisi migratoria, europei e africani finalmente al lavoro su una soluzione, con sulla prima pagina di Le Figaro anche alcuni video, brevi video fatti ieri nelle parti pubbliche di questo vertice che si è tenuto a Parigi. Poi, per darvi un'idea, perché ricordando l'ascoltatore che diceva non parlare sempre solo di un solo giornale tedesco, per darvi un'idea della Bild, che sicuramente ha una diffusione molto superiore alla Frankfurt Allgemeine o alla Süddeutsche Zeitung, si parla di 6 milioni di lettori, un record comunque anche europeo, però è un cosiddetto tabloid, quindi ha notizie non sempre verificatissime, mettiamola così, o che comunque sono molto urlate, molto strillate fin dalla grafica. E oggi l'approfondimento, per esempio, è dedicato ai problemi che si hanno in Germania nella ricezione quando si usano i telefoni cellulari, tant'è che secondo la Bild, io sorrido perché io non credo che sia così, in ogni caso la ricezione sarebbe peggiore in Germania, e la Bild si chiede perché, di quella che c'è in Perù, Romania o Kazakistan. Ci lasciamo un attimo però per la seconda pausa sul traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. bredaportoni.com vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben ritrovati per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Ci spostiamo nelle pagine interne dei giornali. Vi segnalo dal Sole 24 Ore la pagina 9 di commenti e inchieste con due approfondimenti secondo me interessantissimi. Ha ragione l'ascoltatore che dice siamo onesti fino in fondo, non si parla di certi argomenti, per esempio le stragi dei migranti che cercano di attraversare i deserti, perché in fondo non ci importa tanto delle disgrazie altrui, anche perché abbiamo abbastanza guai in Italia. E temo che ci sia un fondo di verità, e però a volte, soprattutto appunto quando uno magari è tranquillo alla sua scrivania ha un po' di tempo, perché non informarsi su quello che succede nel resto del mondo e avere dell'empatia magari anche un po' sterile, però forse è meglio che non averla. E quindi su questo, sugli scenari che muovono tutto quello che succede sul nostro pianeta, questi due articoli che vanno sotto il cappello di risorse e geopolitica. Da una parte Roberto Bongiorni, che ci spiega come i paesi si muovono sullo scacchiere dell'energia. Nell'attuale instabilità si muove la Francia, che punta su Qatar e Iran, con tutte le conseguenze che potete immaginare sul fatto che l'Iran è in perenne conflitto diplomatico con gli Stati Uniti, il Qatar è in perenne conflitto con l'Arabia Saudita, che è un alleato storico degli Stati Uniti, e così si intrecciano le questioni economiche e quelle politiche. Mentre Rosneft, il colosso russo, si muove soprattutto in India e Cina, e questa è la prima parte dell'approfondimento. La seconda invece, che riguarda sempre l'energia ma non solo, nella partita dell'Artico la Russia si gioca il futuro da superpotenza. E c'è una mappa che fa capire molto bene come una volta il passaggio più strategico, per esempio per andare in Asia dall'Europa, fosse il canale di Suez. Adesso abbiamo sentito come una delle conseguenze dei cambiamenti climatici si è di fatto aperto un passaggio nell'Artico, dove quest'anno non sono stati necessari per la prima volta i rompighiacci, e questo naturalmente per la Russia è un'ottima notizia. La strada per una navigazione sicura e competitiva a nord è ancora lunga, c'è il problema ambientale e le tecnologie sono per ora costose e inaccessibili, ma ci racconta Antonella Scott, comunque il percorso è iniziato. Buone notizie per l'export italiano, sulla prima pagina di Imprese e Territori Luca Orlando ci racconta: export negli Stati Uniti, l'Italia ha superato la Francia. Sono state scalate dal 2010 sei posizioni nella classifica dei fornitori americani, che per molti prodotti, comunque gli Stati Uniti non sono più la prima potenza economica del mondo, perché in questo momento è la Cina, però comunque è un mercato importantissimo per tantissimi prodotti, specie per poi prodotti molto in cui gli italiani sono particolarmente bravi, cioè il design, l'arredo, la moda, tutta l'enogastronomia. C'è un ascoltatore che mi dice una cosa un po' criptica, ruffiana, ma non so ruffiana verso chi, forse verso il nostro giornale, non lo so, comunque spero di non essere ruffiana, ma se lui mi percepisce così rifletterò anche su questo, anche se vorrei qualche indicazione in più, perché ripeto, non so nei confronti di chi sono stata ruffiana. Ma proseguiamo per il Sole 24 Ore, un'ultima segnalazione, anzi due segnalazioni. Una è quella dell'agenda del professionista, arrivata alla puntata 21, la trovate a pagina 16. Oggi il tema è lo spesometro e i dati IVA, tutta una pagina dedicata appunto a questo. E poi uno dei parterre di finanza, che sono come dei commenti brevi che trovate oggi a pagina 23 del Sole 24 Ore, dedicato a Gerhard Schröder, che fu sconfitto da Angela Merkel in quello che sembra ormai lontanissimo 2005, l'anno in cui iniziò l'era Merkel, possiamo dire così. Schröder era stato cancelliere fino a quel momento per il centrosinistra, arrivò Angela Merkel. Da quel momento poi Schröder ha un po' lasciato la politica e si è dato ad altro, per esempio è diventato consigliere di molte multinazionali e adesso addirittura potrebbe diventare il presidente della Rosneft, che l'abbiamo nominata prima, è il colosso russo dell'energia. Schröder sempre più lanciato verso la presidenza Rosneft, e Angela Merkel non ha esitato a dire che quello che fa Schröder secondo lei non va bene. E qui il parterre appunto un po' si lega anche al tema che avevamo visto anche l'altro giorno proprio sul Sole 24 Ore, dei politici anche di primo piano che poi si dedicano ad altro. L'esempio più famoso forse è Tony Blair, che sicuramente guadagna molto di più come consulente da quando non è più premier britannico, ma ci sono anche altri esempi come François Fillon in Francia. Quindi da una parte l'idea che quando si viene sconfitti, per esempio in un'elezione, si trovano altre strade, e dall'altra però che da tedesco fare il presidente del colosso russo dell'energia potrebbe essere, secondo Angela Merkel, insomma, una cosa che non va bene. Vi segnalo dal Corriere della Sera, anche se la notizia c'è anche su altri giornali, un bel ritratto del nuovo amministratore delegato di Uber, che sappiamo ha finora rivoluzionato il trasporto pubblico, però sta avendo parecchi problemi sia nei paesi in cui è presente per cercare di non violare le leggi locali. Sappiamo quanti problemi ci sono stati in Italia con le associazioni dei tassisti, ma anche dei problemi economici, perché ha investito moltissimo e per ora non ci sono ancora profitti per coprire tutti questi investimenti. E poi ci sono anche state molte accuse a quello che era prima l'amministratore legato, che è uno dei fondatori, Travis Kalanick di Uber, appunto, che si è dimesso per cercare di ridare fiducia agli investitori, e poi perché non stava facendo un buon lavoro. E arriva alla guida di Uber una manager di origine iraniana, che però fino adesso aveva guidato Expedia, quindi un altro di queste società nate con la sharing economy, proprio come Uber, e si chiama, ha un nome abbastanza difficile da pronunciarlo, vediamo se ci riesco senza inciampare, Dara Khorosvasai. È un iraniano americano e appunto ha rivoluzionato Expedia, così ci racconta Massimo Sideri a pagina 35 del Corriere. È nato a Teheran, appunto, quindi originario. Alla fine è stato preferito a Meg Whitman, che è stata per tantissimi anni l'amministratore legato di eBay, adesso lo è di Hewlett Packard, e anche a Jeff Immelt, che invece è un altro famosissimo manager americano, di, in questo caso adesso sta guidando, non mi ricordo esattamente, vabbè, mi sfugge, perdonatemi, comunque credo che in passato sia stato anche il numero uno di General Electric, comunque altro appunto manager americano di grandissima esperienza. Ma a questi due manager, diciamo, una che è un po' a metà, perché eBay è nata con la net economy, ma non è un sito di sharing economy, non è una società che opera nella cosiddetta sharing economy, e Jeff Immelt invece è proprio, diciamo, old economy. Da qui la scelta invece di un uomo che sembra, di un manager che sembra avere maggiore esperienza di questo tipo di nuovi modelli di business. Il Messaggero, vabbè, purtroppo non c'è tempo di segnalarvelo. Vi segnalo dalla Repubblica, come ogni martedì, il supplemento dedicato alla salute. La copertina di oggi è "La bellezza ci salverà la vita", e si scopre da ricerche scientifiche, questa è una frase di Dostoevskij, ma si scopre "La bellezza ci salverà il mondo", diceva Dostoevskij, ma qui, grazie a studi scientifici, si scopre che godere di un'opera d'arte, così come dipingere, combatte infarto, ipertensione e stress. Ecco che cosa succede nel cervello quando incontriamo l'arte e perché fa bene. Motivo in più, insomma, per appunto frequentare luoghi d'arte o leggere libri o anche solo sfogliarli, specie se sono d'arte. Un'ultimissima notizia dalla Spagna, perché ma sono passati solo 10 giorni dagli attentati di Barcellona, ma prosegue anche tutto l'iter per l'indipendenza della Catalogna, e quindi la stampa, Francesco Olivo a pagina 13, ci racconta: la Catalogna rompe la tregua con Madrid, pronta la legge per l'indipendenza. In vista del referendum del 1 ottobre, considerato illegale dal governo centrale di Madrid di Rajoy, la Generalitat, cioè il governo della regione catalana, detta le regole per gestire la transizione verso uno Stato autonomo. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Peter Bescapè in regia, un grazie a tutti voi, e soprattutto una buona giornata, un buon martedì da Giulia Crivelli.